Carlo, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Aiutami, Antonella, corri. Sono bloccata dentro la macchina nel sottopassaggio di via Monte Sant'Ilario. Qui c'è acqua da tutte le parti. Non riesco a uscire. Chiama qualcuno, ti prego. L'acqua continua a salire, ho paura. Non so ancora quanto potrò resistere. Una telefonata, l'ultima. Dagli studi Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia Carmelo Lauricella. Avrete capito, è la telefonata di Bruna Carrara, la donna 54enne che è morta a Roma durante il naufragio. Dice, scrive il Messaggero, la cronaca del Messaggero, e la vita di Bruna Carrara, 54 anni, finisce così, dentro una Renault Twingo nera che diventa la sua trappola mortale, uccisa da 4 metri di acqua e fango in quel maledetto sottopassaggio di Monte Rotondo, lei che persino quando il mare le sfiorava i fianchi le mancava il fiato. È lì che Bruna, impiegata come donna delle pulizie in una ditta di trasporti sulla Tiburtina, guarda la morte in faccia, mentre nell'ultima disperata telefonata all'amica Antonella Puddu chiede un aiuto che arriverà troppo tardi. Sono le 4:55 del mattino. Ecco, questa è la cronaca terribile su questa cosa, su questa morte un po' assurda. Per esempio, Gabriele Romagnoli scrive in prima pagina sulla Repubblica a proposito delle polemiche subito scattate con, anche nei confronti della giunta e di Alemanno. Scrive Romagnoli, in una capitale d'Occidente una donna è morta ammazzata dalla pioggia. C'è qualcosa di inaccettabilmente surreale nella fine di Bruna Carrara, 54 anni. E il Riformista picchia durissimo, perché il Riformista apre su questo il naufragio di Roma con una cronaca disastro capitale. La metropoli nel caos, donna annegata nella sua auto, sindaco sotto accusa, sciopero FS revocato, una tempesta affonda Alemanno e mette la città in ginocchio, gente bloccata sulle ferrovie urbane, migliaia di chiamate ai vigili del fuoco, commercianti che si improvvisano né turbini, una donna annegata nella propria auto, il Tevere a rischio esondazione. Il maltempo mette in ginocchio Roma e dintorni e la regione dichiara lo stato di calamità naturale, e il sindaco Gianni Alemanno, che vaga impreparato tra un vertice e un altro, se la prende col sito internet del Campidoglio. La CGIL revoca lo sciopero dei trasporti. Il quotidiano Il Riformista intervista uno degli ex sindaci di Roma, Rutelli, Francesco Rutelli, e dice Rutelli, l'inefficienza della giunta di Alemanno non ha precedenti nella storia recente della capitale. Francesco Rutelli non usa giri di parole e affida al Riformista la sua bocciatura senza appello del neo sindaco di Roma, città in ginocchio per l'emergenza maltempo. Ma l'emergenza vera, insiste l'ex primo cittadino, riguarda la giunta. Rutelli, perché questo attacco frontale nei confronti del sindaco? Glielo spiego subito. Di fronte agli annunci di maltempo, qualsiasi amministrazione comunale, soprattutto in una città come Roma, avrebbe dovuto prevedere un piano straordinario di pulizia. Parliamo anche di interventi molto semplici, a partire dalle caditoie. Una giunta mediamente efficiente poi avrebbe dovuto intervenire sulla gestione della viabilità. C'erano tante cose da fare. Sa cosa ha fatto Alemanno? Niente. O meglio, ha rivolto un invito ai romani a non usare l'automobile alle 9:40 del mattino, quando la città era già paralizzata da ore. Sta dicendo che il caos che si è creato a Roma nelle ultime ore è tutta colpa della giunta Alemanno? Senza alcun dubbio. Alemanno e la sua squadra di governo la città ormai da 8 mesi, e da 8 mesi stanno dando prove di assoluta incompetenza. Questo è quindi l'attacco durissimo che provocherà ovviamente delle repliche da parte del sindaco di Roma. Il quotidiano Il Riformista poi invece affida al suo direttore Antonio Polito un ragionamento sulla riforma della giustizia. Il tema forte si vede nel titolo: meglio una riforma alla Berlusconi che nessuna riforma. Scrive Antonio Polito, Berlusconi è un guascone, non conosce il galateo istituzionale, gli piace comandare più che governare e ha una tendenza innata a perdere ogni occasione che la storia gli offre per trasformarsi davvero in uno statista, anche quando tutte le circostanze glielo consentirebbero. Tutto questo è giusto, e anzi anzi, le cose stanno perfin peggio, perché penso che Berlusconi non si comporti così per mero gusto cesarista, ma perché ha una maggioranza che, pur essendo numericamente forte, è politicamente fragile sul tema giustizia. Né la Lega né una buona fetta di AN hanno alcuna voglia di seguirlo sulla strada del corpo a corpo coi giudici. Ma detto questo, che politique d'abord, quello che non capisco è perché si rimprovera Berlusconi, come hanno fatto ieri Corriere della Repubblica, il ricorso allo strumento della legge costituzionale. Dice Antonio Polito, meglio questa strada che nessuna riforma della giustizia, che ormai è a pezzi. Questa è la tesi di Antonio Polito. Ma se noi andiamo a vedere due quotidiani, cioè il Sole 24 Ore e il quotidiano La Repubblica, forse ritroviamo una risposta al quesito posto da Antonio Polito sul quotidiano Il Riformista, perché per esempio il Sole 24 Ore affida a Valerio Onida una disamina di questa questione, contrapposizioni pericolose. Se si torna all'idea di una costituzione di maggioranza, scrive Valerio Onida sul Sole 24 Ore, riformata muro contro muro, con il voto parlamentare e popolare, si perde un elemento di metodo fondamentale, si perde l'idea che la Costituzione non è e non può essere materia di deliberazione di uno schieramento contro l'altro, ma deve continuare a essere il terreno comune nel quale tutti si riconoscono e a partire dal quale ci si confronta poi sulle scelte politiche. Ecco, questo intervento di Valerio Onida, che poi troviamo a continua pagina 17 del Sole 24 Ore, in realtà non è molto dissimile nella sostanza da quello che ritroveremo subito dopo le anticipazioni del GR sul quotidiano La Repubblica, quando Giuseppe D'Avanzo intervista Zagrebelsky, che è costituzionalista e presidente emerito della Corte Costituzionale, il quale esprime posizioni molto simili a quelle di Valerio Onida. Se i magistrati vengono sottomessi al governo, la funzione giudiziaria si trasforma in uno strumento di lotta politica. Ecco perché siamo in una triste situazione. È con queste parole che Gustavo Zagrebelsky, nell'intervista al quotidiano La Repubblica, esprime delle posizioni molto simili, come vi dicevo prima di interruzione, a quelle che Valerio Onida esprime in un suo intervento sul Sole 24 Ore, quando dice che la Costituzione deve restare il terreno comune di confronto e che è assai rischioso quello di fare un strappo e, diciamo, in qualche modo cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Ecco, questo. Vediamo ancora cosa dice Gustavo Zagrebelsky in questa intervista che gli viene fatta da Giuseppe D'Avanzo, perché ci sono due nozioni di Costituzione. La prima considera la Costituzione come strumento di chi governa. Per Cromwell la Costituzione è appunto instrument of government. Siamo qui alla presenza di Platone, Aristotele, Hobbes e Smith. Per venire al presente o al passato prossimo, non c'è in Sud America vincitore di elezioni, capo popolo o colonnello che non abbia e annunci un suo progetto costituzionale. È lo strumento di cui intende servirsi per esercitare il potere. Ecco, questo è dice Zagrebelsky in questa intervista. Qual è la seconda nozione? È la nostra. Qui il riferimento è John Locke. La Costituzione è inclusiva, non è scritta da chi vince contro gli sconfitti. La Costituzione non si occupa di chi sia il vincitore. Scrive principi per tutti, garantisce i diritti di tutti. Noi siamo figli di questo costituzionalismo. E così conclude. Se il governo, come dice Berlusconi, tirasse diritto, siamo in una situazione tristissima. Penso che occorra far breccia nelle convinzioni collettive, spiegare all'opinione pubblica che non si buttano via da un giorno all'altro secoli di storia e di valori civili. Questo dice Zagrebelsky in questa intervista al quotidiano La Repubblica a proposito del dibattito che è stato suscitato da quando Berlusconi ha detto: cambierò la Costituzione anche senza un'intesa con l'opposizione. Poi ci sarà un referendum. Ecco, quindi diciamo che questo è il tema, anche Anche Repubblica ovviamente pubblica, mette in prima pagina morire di maltempo nelle strade di Roma. Abbiamo già visto prima le parole di Gabriele Romagnoli a proposito dell'assurdità di questa morte. Io volevo tornare un attimo sul Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore oggi apre con questa notizia: ritorna il bonus energia, più aiuti alle famiglie numerose, sì del Senato alla finanziaria, le modifiche del governo al decreto, agevolazione ancora estesa a tutti ma con un'aliquota inferiore, quindi maggiore estensione ma inferiore l'aliquota. Il Sole 24 Ore poi ospita in prima pagina un intervento di un editore, dell'editore di Repubblica, Carlo De Benedetti, che scrive però non di editoria ma del lato nascosto della recessione, e fa un'osservazione, come dire, che da molti considerata pertinente. Caro direttore, nell'affollarsi di questi mesi dei tanti vertici con la G grande e i più svariati numeri dopo il trattino, c'è un grande assente ed è il G2, dove il 2 indica il converge intorno al tavolo degli Stati Uniti e della Cina. Eppure è questo il vertice che andrebbe convocato con più urgenza, già, dice Carlo De Benedetti, se si vogliono risolvere le grandi questioni dall'ambiente, l'inquinamento, alle tutte le vicende relative all'economia e alla finanza, e se noi non abbiamo il consenso di questi due colossi, davvero forse non si possono risolvere le questioni. Questa è sostanzialmente la tesi di Carlo De Benedetti espressa sul Sole 24 Ore. Vi voglio solo ricordare per una cosa, notizia finanziaria, che Finanza e Mercati apre invece Intesa San Paolo, Modiano si dimette, la guida del retail andrà a Francesco Micheli, Bazzoli esclude l'abbandono della governance duale, questo il Sole 24 Ore. Ma torniamo rapidamente alle grandi questioni che oggi ci sono sui quotidiani. Io voglio andare alla Stampa. La Stampa, a differenza di altri quotidiani, per esempio di sinistra estrema, il Manifesto e l'Unità, definiscono con due parole quella che è stata chiamata la semi-retromarcia sulla scuola. Una è il Manifesto, che dice bocciata con la foto della Gelmini, e l'altro è l'Unità, che dice respinta, sempre con la foto della Gelmini. La Stampa invece prende una linea mediana nel titolo: Gelmini riforma a metà, accordo governo sindacati, maestro unico, ma su richiesta delle famiglie. Intanto c'è, voglio segnalarvi anche per correttezza di informazione, che la Stampa intervista il ministro Gelmini, che dice quante bugie, nessun dietro fronte sul maestro unico, la Gelmini ha incassato il colpo dell'onda e ora deve fare marcia indietro, così dicono di lei, siamo di fronte a un'ingegneria della mistificazione, voglio essere chiara subito, il maestro unico resta chiaro, anzi resta solo il maestro unico, il modulo dei due maestri su tre classi è morto e sepolto per sempre. Quindi dice, insomma, abbiamo solo trattato su alcune condizioni particolari. Questa è la tesi. Ma Mattia Feltri, editorialista della Stampa, dice il paese avanti e indietro. Quindi una chiave di lettura un po' diversa da quella del ministro. Il maestro unico, che poi così unico non è, poiché già lo chiamano prevalente, sta per diventare parzialmente prevalente, e cioè sarà affiancato non soltanto dai subordinati, cui spetti il compito di insegnare materie secondarie o integrative come inglese o ginnastica, ma anche dai coordinati, con l'aiuto dei quali sarà garantito il tempo pieno, e cioè le lezioni pomeridiane. La grande riforma, già abbassata al rango di vigorosa messa a punto dai responsabili ministeriali, rischia di ridursi a una messa a punto senza vigore, con sforbiciata degli sprechi più evidenti. Il ministro Maria Stella Gelmini nega la marcia indietro, secondo lei, e lo ripete oggi in un'intervista alla Stampa, la riforma quella era e quella rimane, e tutto il resto è polemicuccia. L'impressione di molti osservatori è un'altra: qualcosa è stato dilazionato, qualcosa attenuato. Se così fosse, come sembra, non si tratterebbe per forza di arrendevolezza o correzione dell'errore, ma dice, insomma, è giustificato. E quindi in qualche modo il quotidiano La Stampa accoglie con favore questa cosa, anche se Naturalmente, dice ancora Mattia Feltri, ma si tratterebbe di coscienziosa presa d'atto che non si può far tutto ciò che si ritiene giusto. Non tutto subito, non tutto per forza. Le proteste di piazza in buona parte fomentate, conservatrici o pretestuose, comunque incidono sui sondaggi e le famiglie private di un comodo asilo pomeridiano per figli fanno sapere la loro nelle indagini demoscopiche. E poi i cambiamenti, se bruschi, diventano ingovernabili e una riduzione troppo drastica dei posti di lavoro. In tempo di crisi è una grana di cui il governo non ha bisogno. Sarebbe tutto accettabile o quasi non fosse che l'entusiasmo dell'esecutivo va a sbattere sempre più spesso contro la realtà dei fatti. E quindi, insomma, Mattia Feltri cita altre cose, cita Renato Brunetta, disposto a rivedere con più indulgenza la disciplina delle visite fiscali, il formidabile federalismo fiscale pensato per rivoltare l'Italia in 2 mesi è oggi una cornice vuota e il quadro sarà dipinto in Parlamento, previo dialogo tra una commissione di sala. E questo scrive Mattia Feltri sul quotidiano La Stampa. E il giornale, non dico che si occupa d'altro, ma invece si occupa dello sciopero di oggi della CGIL e mette, diciamo, in evidenza un'alleanza. Di Pietro, lo sfascista, marcia su Roma. Oggi lo sciopero generale CGIL contro la crisi, una manifestazione che costa 360 milioni e non serve a nulla. Il PD si divide. L'ex PM invece scende in piazza a fianco di Epifani e mette i suoi alleati con le spalle al muro. E c'è una foto bella grande dove si vedono Antonio Di Pietro e Guglielmo Epifani. Di Pietro Epifani nasce l'asse di piazza, il leader IDV aderisce alla mobilitazione generale della CGIL. Ecco, questa è la chiave di lettura del quotidiano Il Giornale, il quale poi propone 2 interviste, quella di Cesare Damiano: starei a casa solo se Veltroni me lo chiedesse. Cesare Damiano, ex ministro del lavoro ed esponente del PD, perché sostiene lo sciopero della CGIL, ha contenuti condivisibili e più passa il tempo e più si rivelano fondati. La crisi è peggiore delle previsioni. Mentre c'è un altro sciopero inutile, i dirigenti PD non partecipino. Pier Paolo Baretta, lei è un ex sindacalista da CISL e anche un deputato del Partito Democratico, e non partecipa perché per più ragioni, la principale è che non condivido lo sciopero generale. Quindi 2 posizioni. Voglio però ricordarvi che sul giornale vi è invece un interessante, a pagina 32 e 33, un inedito di Giorgio Gaber, molto interessante. In quegli anni 70 lì mi chiamavano filosofo e non era un complimento, è un lungo testo, un testo perduto, il dilemma, si parla di un rapporto, di una relazione, però è davvero interessante, ci ricorda il grande Giorgio Gaber. Il giornale ha l'inedito e lo pubblica integralmente. Questo è il quotidiano del giornale. Vi dicevo, Corriere della Sera. Il Corriere della Sera invece intervista Walter Veltroni ed è Aldo Cazzullo che lo intervista. Vediamo per ora, se facciamo in tempo, prima delle notizie sul traffico, di darvi solo alcune tracce di questa intervista. Walter Veltroni attacca, dopo gli annunci spot, nessun segno di vita di fronte alla più grave crisi che la nostra generazione abbia conosciuto. Non credo che questo governo sia in grado di affrontarla. Berlusconi non è all'altezza di questa crisi. Questo dice Walter Veltroni. Crisi senza precedenti e Berlusconi non è all'altezza. Questo, come vi dicevo, vi annunciavo, è la lunga intervista che Aldo Cazzullo fa a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. E quando parla di un Berlusconi non all'altezza, Cazzullo dice che cosa intende e così risponde Veltroni: Berlusconi non è all'altezza di questa crisi. Di fronte alla drammaticità di ricadute sociali senza precedenti dalla Grande Depressione di cui abbiamo letto sui libri, Berlusconi si occupa di tutt'altro, di stravolgere la giustizia, di cambiare i direttori dei giornali e magari pure i vignettisti. Non mi si venga a parlare di analisi catastrofiste. I prossimi mesi saranno i più duri della nostra storia. Basterebbe informarsi su quanti operai dell'auto faranno di dicembre in cassa integrazione. Berlusconi dice che l'Italia sentirà meno crisi. E perché mai, con un debito pubblico più alto, metà paese in balia delle mafie, il credito strozzato, le infrastrutture in ritardo, l'Italia risentirà della crisi più degli altri? Berlusconi le ricorderebbe che le profezie infauste si autoavverano. Spero non si avveri la profezia del ministro Sacconi, finita su tutti i giornali europei, e cioè il rischio di una bancarotta o di una situazione di tipo argentino. Parole irresponsabili, ma non dobbiamo aver paura della realtà. E questo è uno dei pezzi dell'intervista di Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera riporta anche una possibile polemica. Poi molto spesso le polemiche tra Berlusconi e Bossi rientrano rapidamente, ma diciamo il titolo di prima pagina comunque è: Bossi frena Berlusconi, deve abbassare i toni. Umberto Bossi teme per il cammino del federalismo dopo lo stop al dialogo sulla giustizia di Berlusconi e chiede di abbassare i toni. Confronto, meglio il confronto. E sì, questa è la posizione che viene riportata dal Corriere della Sera. Bossi e Fini pressing sul premier per il dialogo. Il motivo, naturalmente, l'ha spiegato lo stesso Umberto Bossi in molte interviste, è che c'è il rischio che se si inaspriscono i rapporti tra maggioranza e opposizione sul tema della giustizia, ne risenta quella che per Bossi è la priorità, cioè il federalismo, che potrebbe non passare o essere ostacolato in commissione dove appunto si lavora per la riforma sul federalismo fiscale. Questo il Corriere della Sera. E vi è anche un Massimo Franco che scrive: la tregua è così improvvisa che può lasciare interdetti. Il governo che concede molto sulla riforma della scuola firmata dal ministro Maria Stella Gelmini e il centrosinistra che si vanta della pressione esercitata ma in parallelo riconosce le aperture. E questo è riferito, naturalmente, Massimo Franco, il riferimento, la sua riflessione è sul un chiaro segnale al partito del dialogo. Forse a spiegare la marcia indietro vistosa possono servire più le trattative riservate delle ultime settimane che le parole ufficiali, scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera. Ora vi dicevo che il Manifesto e l'Unità invece interpretano in modo radicale quello che è avvenuto, perché il Manifesto titola: la riforma delle scuole superiori slitta al 2010, il maestro unico diventa facoltativo, non aumenterà il numero massimo di alunni per classe, la Gelmini è costretta a far dietro front, una prima vittoria dell'onda. Ma che ne sarà dei tagli annunciati? E infatti il titolo è bocciata, utilizzando un termine lo stesso, anche se un po' diverso, termine che usa l'Unità: respinta, scuola dietro fondo della Gelmini. La stessa tesi è l'Unità, che andiamo a vedere, scrive: la riforma Gelmini travolta dall'onda e dai sondaggi, maestro unico solo a richiesta delle famiglie, e retromarcia del ministro, il maestro unico sarà solo a richiesta dell'asilo, non cambierà. Questa la tesi, quindi diciamo ci sono diverse diversità di orientamento e anche di interpretazione di quello che sta avvenendo. Ecco, l'Unità, come il Manifesto peraltro, appoggiano invece la CGIL torna in piazza, sciopero contro il governo. E vi è anche qui un servizio molto ampio, una terapia d'urto contro le scelte del governo. Contro la crisi ci vuole una terapia d'urto. Il governo cambi le sue scelte, faccia quello che si sta facendo nel resto d'Europa. È quello che la CGIL chiede con lo sciopero generale di oggi. Corteo in più di 100 piazze, anche se sappiamo dal GR che ci saranno poi delle limature dello sciopero nelle situazioni dove il maltempo ha colpito duramente, e pare anche a Venezia, dove si annuncia l'acqua alta, e potrebbe quindi essere in coincidenza lo sciopero dei traghetti, che sembra che venga annullato se così sarà alta l'acqua. Esco dal palazzo, l'opposizione si fa coi lavoratori, intervista Pierluigi Bersani, sempre sull'Unità. Ora il quotidiano lì libero invece ritorna sicuramente a Berlusconi e ritorna perché insiste nella sua campagna contro le province. Il titolo non è il principale, il titolo principale di Libero è "In crisi anche lo sciopero", ecco una versione diversa dello sciopero. Oggi la CGIL scende in piazza per protestare contro il governo e la difficile situazione economica, forse pure contro la pioggia, ci va da sola, senza il PD, insomma una miseria, ecco la chiave di lettura di Libero. Ma vi dicevo che Vittorio Feltri, direttore di Libero, invece propone quattro chiacchiere col premier sugli enti inutili. E Silvio dice: abolirei subito le province se Bossi, tre puntini di sospensione. I lettori hanno seguito la nostra campagna per abolire le province, scrive Vittorio Feltri, e ricorderanno che avevamo sollecitato il premier a dirci perché, dopo aver annunciato in campagna elettorale la soppressione di questi enti costosi e inutili, ha evitato con cura di realizzare il progetto. Ieri Berlusconi ha rotto il silenzio e finalmente conosciamo il suo pensiero. Eliminerei immediatamente le province se avessi in Parlamento il 51% dei consensi, e invece non ce l'ho perché la Lega sul punto è contraria. Queste le parole di Silvio Berlusconi rilasciate a Vittorio Feltri. Apprezziamo, scrive Feltri, la franchezza del Cavaliere, ma gli facciamo osservare che questo lo sapevamo già e avevamo suggerito il modo per aggirare l'ostacolo. Bossi, nonostante sia avvezzo a intemperanze verbali ad usum delfini, non è un pazzo incapace di distinguere il bene dal male, bensì una persona ragionevole e consapevole della necessità di tagliare i rami secchi dell'amministrazione. Qui si tratta non solo di risparmiare un bel po' di quattrini, ma anche di semplificare l'impianto burocratico, scrive Vittorio Feltri. E se lui nicchia sulla cancellazione degli enti in questione, il motivo risiede in ciò che conviene alla sua bottega politica. Oggi la Lega dispone di una grande forza concentrata soprattutto al nord, dove governa in poche città e in mare e in molte province. Se perde queste ultime per effetto dello scioglimento delle medesime, perde quasi tutto il suo potere e il controllo del territorio. Beh, insomma, diciamo una ragione più che sufficiente quindi per la Lega per opporsi fortemente all'abolizione totale delle province. D'altro canto un'abolizione anche, diciamo, solo parziale sarebbe forse non avrebbe molto senso, e quindi il nodo politico resta tutto. Ora, per il tempo che mi rimane, voglio semplicemente invece ricordarvi due settimanali in edicola: l'Espresso, SOS Bambini, rapporto shock sui piccoli colpiti dal cancro. In Italia sono il doppio rispetto al resto d'Europa, dalle Marche all'Emilia, dalla Sardegna alla Campania, inquinamento e alimentazione le cause. Terribile, sì, brutto quando vede un bimbo soffrire di quella terribile malattia. E invece panorama è sutt'altro fronte, la copertina S: crolla il Partito Democratico, sondaggi a picco, pericolose scadenze elettorali imminenti, questione morale, governo ombra, flop. Ecco perché il sogno Veltroni rischia di sfiorire a primavera. E con questa segnalazione dal settimanale Panorama io ho concluso il mio tempo, quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.